Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tutti convocati oggi con una puntata davvero speciale. Allora, subito i riferimenti: 800 24 00 24, per chiamare, intervenire in diretta, vi aspettiamo numerosi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e per i vostri whatsapp. Puntata davvero speciale perché oggi giochiamo su due campi contemporaneamente. Giochiamo qui a Milano, ma giochiamo anche a Torino, dal Salone dell'Auto Parco Valentino, dove Radio 24 è presente questa settimana con i suoi studi. A proposito, vi aspettiamo, ci sono lì Pierluigi Pardo e Carlo Genta che vi aspettano. Ciao Carlo, ciao Pier. Sì, siamo qui, Parco Valentino, Salone dell'Auto, ci potete venire a trovare, a vedere, eventualmente potete anche parlare con noi, Pierluigi. Sì, ecco, adesso giusto. mi sento in cuffia, mi sono anche messo il cappellino. Tempo meraviglioso, tra l'altro gli ascoltatori possono anche passare a registrare un messaggio che farete sentire venerdì in Racing Team, certamente, quindi li aspettiamo numerosi. Giochiamo su vari fronti con vari argomenti, a partire dal parterre ricchissimo, ricchissimo. Che siamo venuti a casa di Maurizio Crosetti, che abita qua, che non c'è, praticamente a due metri da qui, che non c'è perché è in viaggio. Io lo aspettavo, avevo voglia di vederlo, e allora è al telefono. Beato lui. Maurizio, guarda, non me lo dite, vorrei essere lì con queste due Topolino Amaranto di Carlo e di Pierluigi che hanno parcheggiato sei in un bel posto ma per il motivo sbagliato, diciamo, potremmo dirla così, trattenuto dopo sì, è così. È stato lungo il tuo rientro da Cardiff. Sì, perché prima sono stato a Manchester per il grande concerto organizzato da Ariana Grande in risposta in qualche maniera al terrore, alla paura del terrorismo. Guarda caso, poche ore dopo che il panico e la paura, sebbene su altri scenari, proprio lì dove siete voi, nella mia città, hanno rischiato di produrre una strage incredibile. Possiamo solo ringraziare il destino a questo punto che questo non sia successo. Io l'ho vista da lontano, sono ancora adesso scioccato da quelle immagini, al di là del fatto che in Piazza San Carlo c'era anche mia figlia, ma sono tra i tanti che hanno tremato, tra i tanti genitori, nonni, zii, fratelli, mamme, papà che hanno tremato sabato sera, sapendo di avere un pezzo di sé nel luogo più sbagliato, ma anche più giusto, perché in teoria è il luogo di una festa. Sì, però Maurizio, adesso non vorrei aprire un fronte troppo ampio, insomma, hanno un senso ancora queste manifestazioni di piazza non controllate, grosso modo, perché mi sembra che sia sfuggito ad ogni controllo. Bisogna controllarle. No, io ti dico, hanno senso, vanno controllate. Io ti dico, seguendo Tiki Taka News sabato sera, ha fatto impressione il collegamento con quella signora anziana che era in prima fila schiacciata contro le transenne che avete fatto. Io ho avuto una sensazione di la signora è meravigliosa, sta benissimo, eccetera, però ho avuto troppa folla. La prima sensazione che era arrivata già nel pomeriggio era quella di una folla superiore alle aspettative quindi a una Piazza San Carlo. Abbiamo letto, ripeto, tutto in questi giorni, la conosciamo a memoria, abbiamo guardato Google Maps, Google Art dall'alto, insomma è ovvio che è una piazza meravigliosa, è il vero salotto di Torino, Crosetti lo confermerà, ed è però chiaramente una piazza antica con poche vie di fuga e non adatta per questo genere, purtroppo di questi tempi, non adatto per questo genere di situazioni. È così. È chiaro che quest'epoca qui ci condanna a delle piccole rinunce, quindi bene hanno fatto a Madrid, ha dei maggiori controlli, Pierluigi. Probabilmente se tu lasci un evento di quel tipo svolgersi naturalmente, mettendo soltanto delle transenne, allora una situazione di pericolo te la vai a cercare. Sì, però io quello che mi sembra di poter dire da profano, da non esperto di terrorismo certamente o di servizi segreti, però è che in quest'epoca purtroppo di terrorismo fai da te, in cui c'è anche un effetto emulazione con tutta una serie di persone che decidono di alzarsi la mattina per seminare il panico, probabilmente gli stadi sono il luogo più sicuro, cioè gli stadi sono il luogo che puoi bonificare con maggiore facilità, con maggiore certezza, e quindi probabilmente la soluzione è quella di Madrid. Madrid hanno messo 8 maxi schermi, hanno messo 80.000 persone dentro uno stadio, le vie di fuga erano quelle classiche di una normale partita di calcio, e probabilmente in questo momento di più non ci possiamo permettere. È chiaro che è un peccato, soprattutto in un paese come il nostro che è pieno di luoghi magnifici. Io sono nato, la mia adolescenza l'ho passata a Campo dei Fiori, insomma era un'abitudine andarci quasi tutte le sere. È ovvio che ci sono delle piazze meravigliose, quando ci sono situazioni di questo tipo sono fantastiche, però ci vuole un po' di attenzione. Cross, che dici? Beh, io dico che indubbiamente sabato c'è stato molto dilettantismo organizzativo, e l'abbiamo detto, visto e sentito, soprattutto quel parcheggio non chiuso dove si poteva parcheggiare al limite anche un'autobomba, e da dove salivano decine e decine di casse di bottiglie di vetro che non si potevano vendere, gli alcol. Questo non poteva essere fatto, però io sono a Parigi da ieri pomeriggio per via dell'assalto di quel terrorista, insomma, di quel pazzo scatenato col martello in mano davanti a Notre Dame, dove il panico avrebbe potuto creare un'altra delle situazioni da scacco psichico continuo, come diceva Pierluigi. Certo. 1000 persone che non capivano esattamente cosa stesse accadendo, hanno sentito sparare, sono state in parte fatte andare, in parte sono scappate da loro dentro Notre Dame, trovando e cercando rifugio. E quindi questo cosa è successo? È successo che per fortuna anche lì, come in Piazza San Carlo, l'onda della paura non ha schiacciato troppo i corpi di quelli che si trovavano nel posto giusto, perché non puoi dire che è sbagliato una cattedrale o è sbagliato una piazza, è sbagliato ed è rischioso oggi andarci in tanti, perché siamo spaventati. Siamo spaventati anche da queste forme di terrorismo dilettantesco, lasciami dire. Però siamo qui per, se siete tutti d'accordo, 800240024 si diceva, siamo qui per parlare di sport. Allora, la notizia del giorno, come voi tutti sapete, da Pardo a Crosetti, Capuano, eccetera, eccetera, è il rinnovo di Allegri. Che starà altri 2 anni con la Juventus, è ufficiale praticamente, passerà da un ingaggio di 4 milioni e mezzo a uno di 5 e mezzo l'anno prossimo, 5 e mezzo 7 l'anno successivo, a salire giustamente un ingaggio da top coach qual è Massimiliano Allegri. Quindi si continua con lui. Era probabile, ma non scontato, da oggi è certo. Tra l'altro è a pranzo dalle vostre parti, con Agnelli e Marotta. Se lo vedete, salutatelo. Adesso gli mando un messaggio. Allora, vieni se sei un uomo. Vieni a Parco Valentino. Io l'ultima cosa che voglio chiedere a Maurizio Crosetti è per ricostruire o per l'ultimo giro di danza, The Last Dance, come scrisse Phil Jackson prima dell'ultima stagione con i Bulls. Tutte e due, perché intanto nello sport l'ultimo giro di danza è sempre il penultimo. Per alcuni juventini, alcuni draghi, anagraficamente lo sarà, certo, Buffon, Barzagli e compagnia cantante, ma nel frattempo è il rinnovamento mentre si balla, mentre quest'ultimo giro di valzer, sperando nella prossima Champions, è lì con la musica che suona. La Juve però dovrà cambiare qualche ballerino, e lo sa e lo sta facendo. 100 milioni e fischia di euro ottenuti dal premio della Champions hanno già ripagato con gli interessi Higuain, e poi c'erano i 100 di Pogba, e poi c'è un bilancio, un fatturato che permette alla Juve di intervenire, e già lo hanno fatto Szczesny, Schick, e pare ancora un tentativo robusto per Donnarumma, che vedrete non sarà abbandonato come pista e come sogno della Juve. Sono i nomi, alcuni dei nomi che serviranno a tentare quest'altro giro di valzer, nonostante le 5 sconfitte consecutive dal 97 in finale di Champions, però insomma, come dice quella vignetta, non può piovere sempre, e quell'altro risponde sì che può. Però non aprire l'ombrello. La curiosità è se in questo giro di valzer non ci sia qualche sorpresa, cioè ad esempio se quella lite che abbiamo visto tra Bonucci e Allegri ricomposta, e anzi momento fondante di questa stagione, non diventi poi in realtà la cartolina d'addio. Bonucci può andare in Inghilterra, ma non perché ha litigato con Allegri, può andare in Inghilterra anche, forse, ecco, può essersi convinto una volta di più quella sera, perché ha delle offerte da Chelsea e due Manchester enormi da mesi, e lui sì potrebbe pensare che l'ultimo giro... legittima. E a 30 anni la Juve lo vende per 50 milioni, sì, un trentenne, ragazzi. Io subito lo vendo. È una win-win, come dicono quelli bravi, cioè, certo, conviene, è una cosa che conviene a tutti. Io un po' fantacalcistica, ma ne parliamo dopo il traffico. Abbiamo il traffico, ragazzi, è un paradosso. Aspettate, allora dai, salutiamo Maurizio Crosetti. Ciao Cross. Ciao, siete nella seconda, prima città più bella del mondo, io nella seconda. E io nella terza, dai, così abbiamo messo d'accordo tutti. Grazie Maurizio Crosetti. Allora, 800-24-0024. No, poi si offendono tutti gli altri, si offendono tutti gli altri. Oh, c'è chi ci ricorda anche che organizzare eventi è un lavoro, se li cancelliamo posti di lavoro, ma nessuno vuole cancellare. Si fanno delle riflessioni ad alta voce, come legittimo che sia in questo periodo e con negli occhi quello che è successo sabato notte a Torino. 800-24-0024, traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Oh, c'è chi ci accusa, carissimi Carlo e Pier, di aver toppato le previsioni sulla permanenza di Allegri. Carlo. Non so se abbiamo toppato le previsioni sulla permanenza di Allegri. Io ero molto dubbioso. Sul fatto che Allegri sarebbe rimasto in caso di triplette, e triplette non è stato raggiunto. Quindi questo ha cambiato lo scenario. Però ero curioso di sentire la teoria di Pierluigi. Cos'era su Bonucci? Ma no, sulla Juve. Una teoria, attenzione, allacciare le cinture. È chiaro che la Juve tende a uccidere il campionato italiano, no? Sentivo la voce di Donnarumma, Szczęsny, c'è tutto il resto, Keita, Schick. Da un certo punto di vista è chiaro che la Juve deve innanzitutto continuare a vincere i campionati e la Coppa Italia, perché è ovvio che quello è l'obiettivo della stagione. Però da un certo punto di vista, secondo me, alla Juve converrebbe in prospettiva europea avere un campionato un po' più equilibrato. Cioè, secondo me, quello che si rischia, se dovesse esserci questa tendenza, cioè che la Juve è sempre più forte, che continua a comprare, che compra migliori di tutte le altre, come è successo lo scorso anno, che poi si crea una sproporzione e si rischia quello che disse Capello un paio di anni fa, cioè di un campionato che rischia di essere poco allenante, dove poi arrivi nella stagione a giocarti tutto, un po' come succede al Bayern in Germania, un po' come succede al Paris Saint-Germain, anche se quest'anno non ha vinto in Francia, arrivi a giocarti tutta la stagione in 3-4 partite che lo sono so Pierluigi, però c'è stata anche la congiunzione astrale delle milanesi che hanno vissuto anni bui, eccetera eccetera. Io su questa questa teoria del campionato poco allenante non sono poi così d'accordo, perché il campionato più allenante che c'è qual è, teoricamente quello inglese, dove il grano ce l'hanno tutti. Ma il campionato spagnolo è molto particolare. In Italia si gioca un calcio di tipo diverso, molto più tattico, lo sappiamo, molto meno vicino ai canoni europei, quindi non spetta ovviamente alla Juve però quello che credo è che se aumenterà il livello di competitività del campionato italiano, ci sarà un beneficio in assoluto a livello di competizione europea, è un paradosso, potrebbe esserci un beneficio anche per la Juve, che si troverebbe anche in patria a dover competere con un avversario di livello superiore, soprattutto a non vivere la stagione come l'attesa di 2, 3, 4 partite decisive, perché poi è chiaro che la pressione aumenta. Se tu sei, come succede al Bayern in Germania, condannato a vincere il campionato per decreto. Se sei campione d'Europa a marzo. Esatto. Il campionato tedesco è particolarmente allenante. Dovrebbe essere in linea il DJ? No, non ancora. Io vi faccio sentire, a proposito di griglia di partenza, di campionato allenante o meno, perché c'è chi secondo me si sta preparando l'anno prossimo a impegnare davvero la Juve fino alla fine, ed è il Napoli. Posto che poi, secondo me, ma questa è una riflessione che lascio, come è andata a Cardiff, Cruyff e il crollo in parte anche fisico, ci racconta che forse non è vero che la Juve ha gestito così in serenità l'ultimo mese e mezzo. Cioè, per vincere lo scudetto li ha dovuti fare quei punti. Forse siamo un po' più allenanti di quello che sembra. Aspetta che vi faccio sentire Mertens. Era stanca, può essere. Io dico che noi abbiamo pensato che i due punti fatti in tre partite fossero semplicemente una frenata controllata. Poi dopo ti accorgi che in realtà l'ultimo mese e mezzo della Juve è stato fatto di tanti gol presi, tanti blackout, tempi interi soffrendo fisicamente l'avversario, perché è capitato anche con l'Atalanta, era capitato con la Roma, era capitato resta, in parte col Toro. Resta misterioso l'atteggiamento della Juventus in quel secondo tempo di Cardiff. Dobbiamo sentire Mertens. Sentiamo Mertens. Del Napoli. Oh, manca la continuità. Le ultime sei mesi abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto i più punti di tutti. E questo dobbiamo continuare, dobbiamo prendere questo per l'anno prossimo e dobbiamo iniziare e finire bene. E quest'anno loro, è vero, quest'anno è stato molto forte, ma l'anno prossimo possiamo puntare, sono sicuro. Hai capito, l'anno prossimo questo possiamo Mertens puntare. Allora, secondo me, la mia teoria è che, mentre c'è Stefano alla provincia di Treviso che ha già chiamato, 800240024, è che il Napoli, Pierluigi, la campagna acquisti l'abbia già cominciata facendo cadere quelle barriere salariali che De Laurentiis era giustamente autoimposto, no? Quindi partendo dai rinnovi contrattuali, poi deve decidere cosa farà col portiere, con Pepe Reina, ma non credo che lì sia una questione di grano, credo sia una questione di scelta, certo, no, del portiere. Napoli sta muovendo bene, cioè è chiaro che sta crescendo gradualmente negli anni, aumentando il tetto salariale, aumentando il monte ingaggi, crescendo in maniera significativa, ma già l'anno scorso secondo me la cessione di Higuaín dal punto di vista tecnico comunque ha portato una serie di acquisti molto importanti. Io ribadisco, ho detto mille volte, per me il Napoli come rosa era la seconda forza del campionato, sì, perché secondo me è molto più profonda della Roma, come qualità di punta siamo lì, ma come profondità mi aspettavo qualcosa in più, però che Napoli abbia grandi prospettive davanti a sé, sì, è anche difficile capire come migliorarlo. Adesso è in linea c'è Antonio Di Gennaro, oh, dice. Cioè, ciao Antonio, buongiorno. Ciao a voi, un saluto a Pier. Ciao. Noi siamo qui a Parco Valentino, al Salone dell'Auto, cornice meravigliosa. Peccato che tu non sia. Ci sono anche macchine da comprare. Non possiamo fare pubblicità. Avendo i soldi. Se no, dicami meno SUV, cabrio, com'è? Poi te lo dice Pardo. Poi mamma te lo dice... mia, come siete lisi, eh? Che devo fare? Allora, se gioca a gas, senti, Richard Lancillotto, dove sta? Senti, come l'hai vista? Non ci siamo più sentiti dopo Cardiff. Sì. Ho sentito quasi, a un certo punto, quasi non trovavi più le parole. Mi mancano le parole. No, nel senso che il secondo tempo della Juventus, la mezz'ora del secondo tempo della Juventus, io non me la ricordavo da anni. Nel senso che prendere tre gol in mezz'ora e la dimensione del risultato, della prestazione, il calo a tutti i livelli, sinceramente non me l'aspettavo io, ma credo nessuno. E quindi, nessuno? Nessuno. Fa specie che questa squadra è arrivata benissimo, con un andamento quasi perfetto. Ha subito tre gol soltanto e ne ha presi quattro in finale. Questa dimostrazione che un po' il Real ha fatto anche in tutta il suo cammino in Champions League. Ricordiamoci, nella fase a girone ha preso tre gol con Lega e Varsavia, col Bayern ovviamente sappiamo com'è andata, e anche con il Napoli insomma sembrava, anche se poi ha vinto 3-1 e 3-1 in tutti e due i match, qualcosa si era visto che questa squadra poteva concedere. No, solo che diciamo, hanno una dimmi. Sì, no, vai avanti Antonio. No, dicevo che è una squadra che ha sempre concesso il Real Madrid, però dà la sensazione poi che quando vuole accelerare in un modo o nell'altro, anche se poi il secondo tempo di Cardiff ha accelerato in maniera diciamo come non l'avevo mai vista quest'anno il Real Madrid. Sì, la Juventus sicuramente gli ha dato una grande mano, però ho visto una squadra determinata, aggressiva, centrocampo ovviamente non c'era più della Juventus, hanno dettato legge con giocatori che possono, anche nei momenti che magari non si vedono tanto, poi vengono fuori nella loro classe, nella loro capacità di dettare i ritmi. E poi davanti, sentivo Cristiano Ronaldo, ma ha preso due palloni, ha fatto due gol. D'altronde Cristiano Ronaldo quest'anno è stato gestito in maniera perfetta da Zinedine Zidane, l'ha tolto, è stato caricato perché arrivasse lì. Ma d'altronde lui, non per l'età, ma anche adesso ultimamente, in questi ultimi periodi, gioca prevalentemente vicino all'area di rigore. Il lavoro sporco, così si può dire, l'ha fatto Benzema, l'ha fatto Isco, lo fanno i terzini, soprattutto Marcello, quando vanno a fare l'azione di centrocampisti. Lui ha questa capacità poi di trovarsi sempre pronto, perché a parte i due gol, anche l'azione di, nel primo tempo, dove Isco ha messo la palla in area di rigore, lui è arrivato male di testa, ma si era creato la prospettiva di fare un terzo gol. Quindi è un giocatore che ti risolve. Dall'altra parte mi ha deluso molto Dybala, è giovane, però certe valutazioni bisogna aspettare a farle, certe, diciamo, anche accostamenti, e quindi, perché il giocatore c'è, di talento, deve crescere. E poi vengo a Higuain, che sicuramente non è stato supportato al secondo tempo, però sono giocatori che in queste partite finali, e ci ricordiamo anche il suo passato, le patiscono, dai, le patiscono emotivamente, le patiscono. Esatto. Senti, come si migliora una squadra che in Italia domina da anni, che ha le riserve, Pier, nell'organico delle riserve, perché andiamo a vedere il Real aveva Lucas Vázquez e James Rodriguez in tribuna, e poi sono entrati Bale, Asensio, che insomma te lo raccomando, anzi lo sapete, i giocatori secondo me in futuro fortissimo. E il terzo è entrato Morata, insomma non ho tre giocatorini così, e quindi credo che l'organico vada potenziato, soprattutto per le cosiddette riserve, rincalzi, diciamo, parliamo come vogliamo. Ma Lemina, Sturaro, con tutto rispetto, Ristani, in prospettiva di grandissimi, a grandissimi livelli Champions League, sono giocatori secondo me, non dico limitati, ma in Italia, Rincon lo stesso, in Italia possono fare il suo nella Juventus. A livello internazionale qualche cosa concedi, quindi in quel momento, in quel contesto, credo che come organico vada potenziato anche nelle riserve, quindi si stanno già attivando. Poi non so, andrà valutato anche l'aspetto difensivo. Barzagli nel secondo tempo l'ho visto un po' in difficoltà, ma la sua età può essere anche un discorso generale, ma non è perché in quella mezz'ora si è visto delle cose, ripeto, che non avevo mai visto in quei sei anni, no, di ma è quello che resta il grande, ma se avessero vinto la squadra l'avrebbero sicuramente ancora potenziata, perché è giusto rimanere adesso livelli. Si tratta, come diceva, scusa Antonio, come diceva, siamo quasi al momento della borsa e dei saluti con te, come diceva prima Maurizio Crosetti, Allegri rinnova, si tratterà di compiere questa operazione, ultimo ballo per alcuni e per altri invece, e poi si tratterà di rinnovare la squadra, quindi un rinnovamento cammin facendo fa quasi anche rima, rima. Stefano e Alfredo, facciamo Stefano prima della borsa, dai, sta lì da 27 minuti Stefano della marca trevigiana. Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno, io sono un tifosissimo juventino, volevo solo chiedervi a voi cosa ne pensavate di questo. Io ho visto chiaramente la finale, come l'avete vista tutti. Io non credo che Real Madrid sia a tanti scalini sopra la Juve, però secondo me, e vorrei appunto il vostro parere, secondo me la differenza che ha fatto vincere Real è fisica. Io ho visto una Juve perdere tutti i contrasti, perdere uno contro uno, non andare mai via in velocità. Non ho mai visto Alessandro saltare l'uomo. Secondo me vorrei dire cotti, ma forse un po' esagerato. Però volevo sentire il vostro parere su questo. Secondo me l'hanno persa così la partita. Questione fisica. La questione fisica sicuramente può essere una motivazione. È chiaro che quando c'è un crollo di una squadra netto nel secondo tempo di una partita, dopo un primo tempo equilibrato, è la prima cosa che pensi. Io penso però che gli aspetti fisici siano intrecciati a quelli mentali. Sai che la testa, no? Come dice Enrico Sacchi, è più facile allenare le gambe o i piedi che la testa. Ecco, per me è un po' successo quello, perché non posso pensare a un crollo così clamoroso. Non era neanche una serata particolarmente calda, no, insomma, non c'era non uno schianto improvviso. Poi ripartiamo da Alfredo da Milano. Adesso borsa di Milano, sì. E poi Alfredo da Milano, ragazzi, al centro di questa puntata. Mi fate salutare Raffaele, che ha mandato un WhatsApp ed era sul mio aereo da Londra a Milano, certo. Il 4 giugno, giorno del ritorno. Sì, stavamo tornando da Cardiff. Ciao Raffaele, la borsa. Saluto, ciao pure De Luca. Pure De Luca, borsa. Tutti convocati. Questa settimana storie poetiche e storie esaltanti al Falco e il Gabbiano. Nel giorno del mio compleanno anch'io torno bambino e racconto la storia di un uomo che non voleva crescere, James Barry, autore di Peter Pan. e poi la folle vita del Mozart moderno. Mozart perché era austriaco, si chiamava Hans Oelzel, ma noi lo conosciamo come Falco. E poi voliamo sulle ali di carta, raccontiamo la storia di un bambino, di un orfano che vive il suo grande riscatto, Oliver Twist. E poi Enrica Lombardi, la grande imprenditrice che ha salvato tanti bambini in Africa. Se il calcio continua a divertirci, probabilmente lo dobbiamo anche a lui, a Rinus Michels, l'uomo che inventò i tulipani olandesi. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Rieccoci da Milano, da Torino, dal salone dell'Autoparco Valentino, 800 24 0024, per le vostre telefonate. Abbiamo già degli amici che ci hanno chiamato, 349 238 6666, sms e whatsapp. Carissimi Carlo e Pier, vi presento Andrea Bocelli. Wow, una delle voci più belle del mondo. Come va? Come va? Ciao! Buongiorno Pardo, ciao. Buongiorno Carlo Genta, che non ho il piacere di conoscere di persona, ma magari potrebbe succedere. Ti aspettiamo. Io lo spero ardentemente, sarebbe un onore. Io sono un vostro ascoltatore soprattutto notturno, perché purtroppo il giorno non ho tempo di stare alla radio. Oggi invece casualmente c'ero, vi ho sentito e volevo farvi un saluto, partecipare anch'io a questa discussione infinita sulla finale di Cardiff, per dire semplicemente che, non so, sarà una mia, un mio punto di vista, ma secondo me si sono fatte moltissime inutili congetture. La Juventus ha perso una partita come ne aveva perse altre, perché in fondo ha perso 3-1 contro Genova quest'anno, ha perso mi pare 3-1 anche contro la Roma, e perché non poteva perdere 4-1 contro il Real Madrid, voglio dire, è una cosa che è fisiologica. Poi il Real Madrid aveva qualche chance in più del Genova contro la Juventus, no? Mi pare. E quindi e questo poteva accadere anche alla Real Madrid, che aveva perso qualche giorno prima 3-1 contro il Barcellona. E forse, guarda, che... Andrea, eravamo un po' contagiati dagli ultimi 3-4 mesi della Juve, che erano stati, a parte quella frenata della Juventus, tutto quello che vuoi. Però il bello del calcio è anche questo, perché se non fosse così, allora sarebbe perfettamente inutile andare allo stadio della partita quando i risultati fossero assolutamente scontati, no? No, però c'era un altro tipo di fiducia, Andrea. Sì, c'era sì, un altro tipo di. Perché chiaro, col Genoa a un certo momento della stagione, insomma, le altre erano partite che potevi perdere. Questa c'era la sensazione del destino che voleva una. Ragazzi, c'era un approccio completamente diverso rispetto a quello di 2 anni fa a Berlino. Questo è vero. Però è andata così, e vabbè, pazienza per tutti i tifosi juventini. Io invece, tra l'altro, approfittavo di questa occasione, per, se me lo consentite, per ricordare invece un grande calciatore che se n'è andato ieri, che è Giuliano Sarri. Grande portiere della Fiorentina, dell'Inter, della grande Inter, che Coppe dei Campioni ne ha vinte, lei sì, e anche della Juventus, perché giocò anche della Juventus, mi pare. Giocò solo poco in nazionale per il portiere che è stato, leggevo ieri, insomma, sì, è vero, ebbe poca fortuna in nazionale. Però mi piaceva ricordarlo perché era una persona molto intelligente, una persona quadrata, disciplinata, era una persona di cui l'Italia avrebbe parecchio bisogno, che ce ne fossero di più. E Andrea, io ti devo dire che questo, evidentemente, Sarti deve avere qualcosa di particolarmente artistico, perché io ho avuto una fortuna di cenare una sera della mia vita con Francesco De Gregori, che insomma è un altro mio mito, e abbiamo parlato lungamente di calcio, e mi raccontava che il suo mito dell'infanzia è stato Sarti, cioè il ruolo, si è innamorato del ruolo del portiere, quindi evidentemente, insomma, Bocelli, De Gregori, Sarti è destinato alla santità, ecco, per quello che è riuscito a evocare. Però vi posso salutare così tanto, grazie di nuovo della convocazione, vi saluto recitandovi brevemente la squadra che la vinse la Coppa dei Campioni, ed era Sarti, Borgici, Pacchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenchini, Suarez e Corso. sono contento di averli ricordati tutti. E questa, e questa ce la teniamo negli archivi. Ti posso chiedere, con un anno di ritardo, tu hai cantato in occasione di grandi partite, però circa un anno fa eravamo voi tutti pazzi. Scusa, dimmi Andrea. Per caso, che a Cardiff, quando hanno trasmesso l'inno della Champions, quella lì era la mia voce. Era cantato in italiano, era cantato in italiano. Ed era la mia voce quella lì, ed è stata registrata in occasione della finale di Coppa dei Campioni a Roma, tra il Liverpool, mi pare, e il tra il Manchester United e il Barcellona. Ma vi svelo anche un retroscena, che qualcuno in tribuna a Cardiff tra gli spagnoli ha un po' storto il naso sentendola cantata in italiano, non per la qualità ovviamente della voce di Andrea Bocelli. Anche perché se ha storto il naso su Bocelli andiamo, ci penso io, Andrea, vado in Italia. Ma qui è tutto responsabilità. Ma mi racconti con un anno di ritardo invece Leicester, perché quella cosa lì, tu hai cantato appunto in occasione di finale di Champions League in tante manifestazioni ufficiali. È una di quelle belle fiabe che succedono purtroppo troppo raramente nel calcio, no? Perché ci dovrebbe essere un po' più di gloria per tutti, no? In Italia, se levi la Juventus, l'Inter, la Milan e le altre squadre messe tutte insieme, quanti campionati hanno vinto, insomma. E allora il Leicester è stata una fiaba bellissima. Vedere una piccola città in festa con gente, poi a capo di questa squadra c'era un italiano, che mi ha fatto piacere esserci, ed è stata una grande emozione. Ma emozione, insomma, è stata una sensazione positiva, bella. Immagino. Senti, immagino. A Cruciani dobbiamo dire qualcosa, lo ascolti sempre, gli devo dire di darsi una regolata, perché so che tu sei anche una quel briccone di Cruciani. No, perché cosa c'entra? No, perché... Povero Cruciani. Quando ci siamo incontrati l'altra volta, avevamo parlato del fatto che ascoltavi anche la Zanzara. Abbiamo un paio di cose in comune, cioè la passione del calcio, un'altra sì, che non dico, e poi abbiamo anche molte cose che ci dividono, insomma. posso immaginare. Passiamo Andrea, oltre. Grazie. Ciao Andrea. Grazie. Come dice Savino quando imita Galeazzi, chiamaci quando vuoi. Ricevere la chiamata di Andrea Bocelli, ho avuto anche la fortuna di ospitarlo a Tiki Taka. Diciamo che lui ha la cartolina verde di convocazione per Pedro. Sentiamo, ascoltatori, diamo un paio di minuti. Alfredo. Alfredo? Pronto? Pronto, dica. Eccoci. Sì, buongiorno pomeriggio. Innanzitutto per dire che alcune passioni sono comuni, insomma, molta gente, ma a parte questo... Tutte e due. Vabbè. Diciamo la primavera in fiore, siamo tutti un po' sì, frizzantini. Vabbè, a parte questo, Bocelli mi ha un po' rubato l'intervento, perché anch'io volevo evidenziare diciamo le sconfitte che la Juventus. Pensavo che anche tu avessi cantato l'inno della Champions. No, non ha le sue qualità, diciamo così. E vabbè, anche la modalità con cui erano venute alcune erano state proprio clamorose. Quindi mi permetto di dare una mia interpretazione rispetto, se posso, velocemente, rispetto alla finale della Juventus in Coppa Campioni. Io l'ho vista nel primo tempo molto molto su di giri, e normalmente quando la Juventus accelera è abituata a lasciare 2-3 gol di scarto agli avversari. Secondo me, se tornati negli spogliatoi, avendo pareggiato con un gol, diciamo così, particolare anche, li ha messi in difficoltà, cioè loro non ci credevano probabilmente, e quindi si vedeva la mancanza di profondità della rosa, almeno in un contesto europeo, perché quando non ti girano né Dybala né Higuain, che ti devono fare la differenza, non hai nessuno, no? Come dicevate voi, c'è chi ha Rodriguez in tribuna e chi Sturaro, insomma. Guarda, ti leggo anche questo messaggio: la partita l'ha persa tatticamente Allegri, lasciando costantemente il Real con un uomo in più sulle fasce, che è un'altra chiave di lettura. Mi ha incuriosito la spiegazione di Buffon: normalmente queste sono partite che vanno affolate, devi reggere 10 minuti di folata del Real e poi tocca a te. La folata del Real Madrid è durata dal primo all'ultimo secondo della ripresa. Sentiamo anche Raffaele da Roma prima del traffico. Sì, poi devo dirvi una cosa, che ho capito che cosa ha provato Bruno Vespa. Bruno Vespa ha ricevuto la chiamata del Papa e il Papa non si batte, però Bocelli arriva secondo vicino, perché Bocelli che ci ascolta e che ci chiama De Luca, che dici? Te l'aspettavi? Non se l'aspettava neanche De Luca. Raffaele, buongiorno. Eccolo, buongiorno e grazie. Pardo, tu che sei mio concittadino mi devi spalleggiare in questo mio breve intervento. Sarò conciso. Sentiamo, sentiamo. La Juventus ha il record europeo delle finali perse. Questa è lo sottolineo questa con tre righe, no, perché devo finire, questa però cronaca. Poi mi no, dite la vostra. Io che dia questo lustro al calcio italiano, una squadra che ha vinto due coppe, come sappiamo, e sei le ha perse, cioè ne ha perse 6 su 8. No, ne ha perse 7 su 9, però andiamo avanti. È un bel record, direi, no? Però che sì. Non viene mai detto, perché questo non si dice. Bisogna solo fare i salamelecchi. Non voi dico, ma chi qualcosina chi abbiamo letto, Raffaele, in questi giorni. Perché... o no? Non si dice. Spalleggia, no, ma dico, Arrigo Sacchi ha detto che dà lustro al calcio italiano. Io ho una squadra che ha un record europeo delle finali perse e non dà lustro. Non dico vergogna, che le la finali, parola brutta, le finali, ma... io ti spalleggio perché sono romano e mi stanno simpatici i romani. Però arrivare in finale è comunque... è un risultato, no? Cioè, per perdere le finali vuol dire che sei arrivato a giocarle, in questo senso sicuramente sì. Poi se parliamo della società in Italia che a livello europeo ha fatto decisamente meglio di tutte le altre, ovviamente il Milan, non credo che ci sia discussione, cioè non penso neanche che sia aperto il dibattito, cioè il predominio in Europa è del Milan, su questo di che stiamo parlando. Sono dubbi, si però, parla di però, DNA insomma, diversi magari. Arrivare a una finale è comunque qualcosa di molto importante. Sì, qualcosina traffico. Deve aver fatto. Abbiamo il traffico, ragazzi, traffico. Convocati. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Rieccoci, il nostro amico romanista ha scatenato gli juventini, hanno scrivono in tanti. Da magari è laziale, magari è laziale, romano. Allora, il nostro amico romano, Napoli, romano esatto. ha scatenato gli juventini. Ditegli che stagioni così gli altri che non sono a Juventus si sognerebbero di farle. Poi però secondo me c'è il messaggio che vince su tutti, te lo leggo. Allegri è un perdente, ha perso lo scudetto col Milan e 2 Champions con la Juve e aveva 2 squadroni. E poi vediamo cosa ha vinto negli ultimi anni e vediamo dove è arrivato nelle ultime 3 finali di Champions League. Due le ha giocate. Rimaniamo a Roma, se no mi rubano Pardo per i selfie al volo mentre c'è il traffico. Abbiamo Roberto Renga qui e a Roma rimaniamo. Perché Roberto, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io e Pardo siamo a Parco Valentino a Torino. Giornata meravigliosa. Fantastica. Si vedono le Alpi, la collina, si vede. Poi il Parco Valentino. Io voglio togliere un dubbio con Renga, non so se anche tu, Pierluigi. Allora, una cessione deve essere Di Francesco da Arrivà, mentre Spalletti all'Inter, Allegri oggi ha rinnovato con la Juventus, eccetera. Di Francesco deve ancora arrivare. Una cessione eccellente deve essere fatta, certo, perché come quale l'Inter sarà? Quale cosa sarà? Quale sarà? E poi però basta. Allora io penso quale sarà? Io penso intanto che Di Francesco arriverà, insomma, perché si stanno mettendo d'accordo, da quello che so, tramite il prestito di qualche ragazzo che magari non è ancora pronto per la Serie A, quindi mi auguro che li trattino bene, perché la Roma ha già dei giovani straordinari. E poi però mi chiedo sempre, ma perché è tanto indispensabile cedere qualcuno? Perché la Roma il prossimo anno prende 50 milioni dalla Champions. Però non li prende prima del 30 giugno, Roberto, dai, le regole sono quelle, oramai le abbiamo imparate a memoria. Sì, questione di regolamento. Ragazzi, ma qualunque banca, voi lo sapete ormai come funziona da tanti anni, non adesso, da tanti anni, i soldi te li scontano in banca. Sì, però il problema è magari prima. Magari da 50 diventano 45. Ma tu vai, adesso te li scontano, come i soldi delle TV. Piero, no? È più bravo di tutti, parla, lo sa queste cose come funzionano. Sì. Sono soldi sicuri, vanno in banca e se li fanno scontare. Però dico, io spero comunque che non cedano nessuno, perché Pallotta ha detto che le grandi squadre, adesso l'ha capito, si fanno con 2 acquisti all'anno. Ma se cede qualcuno, probabilmente il meno doloroso sarebbe Salah tra tutte le cessioni, perché comunque un'ala in giro per il mondo la trovi, anche se un'ala che ha fatto così tanti gol non lo so. Ma prendono Berardi, dai, vendono Salah e prendono Berardi. Comunque, così ci sto. Ci stai? Così ci sto. Io infatti non Pierluigi, sì, non sono d'accordo che non a Pardo. Detta, il sacco di Roma, che non è tacco il sacco di Roma, appunto, questo è il punto che volevo chiarire. Sì. Non è sacco di Roma, no, per Luigi. Ma no, mi sembra di no, anche non perché penso che anche consiglieranno poi di Francesco una squadra depauperata. Allora, il paradosso rimane perché una squadra che arriva seconda col gol di Perotti all'ultimo minuto, quindi ha la certezza dei soldi della Champions League. Non si capisce perché, no, in un mondo normale non si capisce perché debba fare non investimenti ma invece cessioni. Tra l'altro c'è anche, mi segnala giustamente De Luca, l'opzione di Rudiger che potrebbe tranquillamente lasciare magari direzione Milano, vedremo. E la sensazione è che ci sia una sorta di patto e di felicità condivisa. De Rossi ha rinnovato, Strootman ha rinnovato anche se sappiamo che c'è una clausola. Nainggolan ha detto chiaramente anche l'altro giorno che lui si innamora delle piazze, per cui insomma tendenzialmente lui vuole rimanere, quindi c'è la volontà di non buttare via tutto, ma questo mi sembra il minimo. Però ripeto, rimane il paradosso secondo me, cioè di una società che arriva seconda e ciò nonostante invece di investire fa 1/2 cessioni, poi vedremo. In più è arrivato anche l'ok del comune dello stadio. È arrivato un signore che si chiama Monci, che è veramente della serie lasciatelo lavorare, come si dice dei politici, lasciatelo lavorare, perché Monci è uno che veramente dal punto di vista della conoscenza di giocatori alternativi, giocatori di prospettiva, può dare alla Roma da valorizzare, no Roberto? È vero Pierluigi, però io intanto mi chiedo sempre, ma le squadre come si fanno, le grandi squadre, mettendo dei giocatori? Se tu ogni volta cambi, ogni volta devi ricominciare anche l'insegnamento. E ormai lo sappiamo che non si fanno, non si fa così. Pensate se in questo momento dovessimo leggere che il Napoli vende Insigne, no? O vende Cagliacone, o vende Mertens, tutti quanti farebbero perché? Perché mai? Perché mai? Io faccio lo stesso discorso con la Roma. E comunque ancora, quello che voglio dire ai colleghi della Gazzetta, la Roma non ha venduto nessuno. Cioè, perché quelli che ha preso l'Inter sono Sabatini, che è un manager, un allenatore, altri tre allenatori, basterà che un altro manager, magari prenderanno Pallotta, ma i giocatori ancora non l'hanno preso. Prenderanno questo, questo è in dubbio, questo è in dubbio, prenderanno anche il plastico dello stadio, di regolamenti. Poi c'è, ripeto, c'è anche stato, è stato incassato l'ok dal comune per lo stadio ed era un punto determinante per Pallotta. È ufficiale il rinnovo di Allegri fino al 2020, fino al 2020. 2020, quindi un anno in più. Lo sapevamo insomma già da oggi 20, che aveva inchiostrato 20. Vabbè, abbiamo Gerre. Siamo Gerre, sì, da Milano. Ringraziamo Roberto Renga, con cui torneremo presto a chiacchierare di Roma. Ciao, abbiamo tante altre cose dopo il Gerre. Tra l'altro chiariamo anche questa cosa di Allegri, allora 2019 o 2020? 2020. Perché potrebbe non essere semplicemente una differenza stilistica, la scelta di allungare di un anno in più o meno. Abbiamo dopo il GR, abbiamo Luca Marchetti, 2020. Abbiamo Franco Ordine, Fabrizio Besina, abbiamo ancora tante cose. 800 24 00 24, torniamo tra un minuto. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Tu Tutti convocati ancora fino alle 15.30, 800 24 00 24, per chiamare e intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Milano, Torino, al Salone dell'Autoparco del Valentino, Rimini Riccione, Parigi, abbiamo anche Milano Rogoredo con Luca Marchetti, che salutiamo da Sky. Oggi siamo veramente internazionali, ragazzi. No, perché cioè, devi sapere che De Luca ci ha dettato la linea, ha detto poche chiacchiere, rinnovo d'Allegri fino al 2020, solo notizie, tipo raffica. Allora cominciamo. Perché 2020 e non 2019, dai? Perché un anno in più. Questo è banale. Un anno in più che se ne va. Allora, dai, chi prende l'Inter? Dove mi porti e poi soprattutto perché? Allora, citiamo l'Inter in difesa prende Rudiger e Dalbert. A centrocampo non lo so, perché servirà probabilmente un vice João Mario. In attacco ti potrei dire un trittico fra Berardi, Bernardeschi, Di Maria per l'esterno. Ma Berardi non va alla Roma al posto di Salah, scusa. E qua si stoppia, che fa? È una buona opportunità, ma questo non significa che se un giocatore ti piace poi lo devi prendere per forza, sennò le squadre erano da 100 giocatori ogni estate. Va bene, senti, quindi la Roma abbiamo detto che dà via Rudiger e Salah. E chi prende? Chi danno a Di Francesco, scusa Luca? Ma, per esempio un'opportunità potrebbe essere Pellegrini, sul quale sicuramente Di Francesco può fare affidamento, visto che l'ha fatto crescere molto. Un altro nome dal Sassuolo potrebbe essere De Frel. Berardi è un nome che sta circolando molto in zona giallorossa. In difesa non saprei dirti. Io non mi stupirei del fatto, però l'abbiamo già detto, che possano arrivare anche dei giocatori, intanto stranieri, che Monchi conosce perché farà diventare giocatori importanti nella Roma. Questo è il lavoro che farà Monchi fondamentalmente. La verità è che dobbiamo imparare a conoscerlo Monchi. Vi posso far sentire di mezz'ora fa, e secondo me è importante, Pantaleo Corvino oggi alla presentazione di Pioli, che ha parlato di Bernardeschi, e poi mi dite come la interpretate. Siamo andati a fare una proposta sinceramente oltre quelle che sono le nostre possibilità. L'abbiamo fatto con molto spirito di sacrificio, ma anche contenti di poterlo fare per un calciatore che è nato da noi, è cresciuto, e fargli continuare un percorso. Ci aspettiamo da tempo una risposta, non sta ancora arrivando, sicuramente in tempi non troppo lunghi ci aspettiamo una risposta. Avete capito? Come la leggete? Da Bernardeschi, la legge Luca Marchetti. Luca. Risposta credo che più o meno con Pantaleo Corvino la conosca. Non credo che Bernardeschi abbia intenzione in questo momento di rinnovare con la Fiorentina, perché quando hai dietro delle squadre come la Juventus e l'Inter che ti cercano, cerchi di capire se può andare via. A quel punto sarà compito della Fiorentina, insieme a Bozzo, che è l'agente di Bernardeschi, trovare la migliore offerta per uno dei talenti più importanti del calcio italiano. Però io in questo momento, ma forse anche ad agosto, vedo il futuro di Bernardeschi lontano dalla Fiorentina. Milan? Attaccante soprattutto, mi interessa. Milan, ma l'attaccante è il vero grande punto interrogativo del Milan. Insomma, Morata mi pare che stia scemando per una questione di concorrenza estremamente forte da parte del Manchester United su Morata. Belotti è sicuramente un'alternativa importante, Aubameyang è altrettanto importante, ma proprio perché sono grandi giocatori parliamo di grandissime cifre. Per qualcuno anche di ingaggio, vedi Aubameyang, per alcuni forse più di cartellino che di ingaggio, vedi Belotti. Anche in questo caso esisterebbe una concorrenza spietata. È il colpo che il Milan non deve mancare, perché il numero 9 del Milan sarà anche il colpo mediatico, oltre che tecnico, della nuova proprietà. Cioè sarà il biglietto da visita con cui dire: ragazzi, il Milan è tornato. Perché le prime operazioni che sta facendo il Milan sono operazioni molto buone e molto funzionali. Però non sono operazioni che ti portano anche il marketing e la vendita a magliette, o uno spirito internazionale del Milan che ha sempre avuto. Per quello ci sarà appunto l'attaccante. A noi era venuta in mente un'idea, non so quanto praticabile, magari la buttiamo là, con George Mendes il giorno della partita della finale Champions League. C'è un numero 10 che in questo momento al Milan è libero, che al Real va in panchina, anzi va in tribuna. E se non dovesse arrivare un numero 9 mediatico, James, potrebbe James essere James Rodriguez. Lo vogliono tutti, il tribunista è il tribunista più ricercato del mondo. Secondo te, per il gioco di Montella, che giocatore serve al di là della mediaticità, eccetera, eccetera? Perché Bacca, credo che Montella no, il primo nome come, ecco, io direi un giocatore alla Kalinic. alla Kalinic, poco, che è uno, no? Dei primi nomi che ha fatto Montella in una, in un'opzione, non ti voglio dire low cost, ma di low cost. Buon profilo, ottimo profilo, non il profilo a livello internazionale. Giocatore che a me piace, ma non mi sembra esattamente una superstar mondiale. Una superstar, ma con una squadra che cresce dal punto di vista del centrocampo, che Kalinic è un grande lavoratore, faticatore, esatto. Disegna pure, è insomma. Uno che partecipa alla manovra, che ha i costi, che ha i gol, che in questo momento non costa sicuramente come Belotti, come Pomegliano. Sirvi un giocatore che partecipi, Icco, giusto? Questo non ci sono grandi. Dove vuoi continuare con umiltà? Con umiltà. Ma mi fate chiedere a Luca Marchetti della sua, esatto, ma soprattutto il porta, il portiere del Napoli. Portiere del Napoli è un bel rebus, perché Szczęsny è indirizzato verso la Juventus, come sapete. Piace Leno, quello del Bayer Leverkusen. È possibile che Reina rinnovi e che quindi si vada su un profilo diverso per poi eventualmente fare una scelta della titolarità per la prossima o le prossime stagioni, quindi con più calma. Perin, Meret, io non so, anche Skorupski, si era parlato molto anche di lui. Bisognerà capire se il Napoli deve prendere un numero 1 o un numero 12. Questo la Roma va solo su Alisson, cioè Skorupski. In teoria loro ce l'hanno il portiere, lo sai meglio di me, Pier, quindi non avrebbero bisogno di prenderlo. Cioè, quando Alisson era arrivato per fare il numero 1. Poi hanno preso comunque Szczęsny perché piaceva tantissimo a Spalletti, quindi quest'anno si è ritrovato a ma fare. Ma Szczęsny perché va alla Juve col mondiale alle porte? Questa è una domanda. Punto interrogativo. Gli converrebbe andare al Napoli, per esempio? Ma non so se è una questione di questo, dovresti chiedere a lui o a chi sta curando l'intermediazione. Ma tu non parli con Szczęsny? No, perché non parlo le lingue, dovresti parlarci tu che le conosci molto meglio di me. Tra l'altro tra poco ti ruberà il posto di lavoro. Senti, perché hai visto che presenta Szczęsny, è un grande presentatore, sì. Che presento? No, no, no, Szczęsny è un grande presentatore, l'abbiamo visto duellare sulla TV della Roma. Sì. Senti, passiamo adesso alle cose serie. Il futuro della Ternana, c'era stata quella voce di Ferrero. La società, qui non parliamo di giocatori, parliamo di società in vendita. No, credo che ancora. Vorresti Ferrero, ma fai comprare? Arrivano i cinesi anche lì, anche a Terni. Arrivano i cinesi, non ti preoccupare. Non credo. Luca, invece, Allegri, abbiamo capito niente, ha durata, soldi, tutto quanto, ha rinnovato. Ma che cosa chiederà alla Juventus? Quali superstar in arrivo alla Juventus? È opinione comune, è anche la mia, che la stessa voglia che ha Allegri di riprovare a vincere la Champions League l'ha della Juventus. Allora, se avessero vinto probabilmente avrebbero accelerato quel processo di cambiamento all'interno della squadra. Come si erano dati tempo 2 anni con l'arrivo di Higuaín, di Pjanic, eccetera eccetera, visto la naturale scadenza biologica di alcuni giocatori, vedi Barzagli, vedi Buffon, per arrivare a vincerla questa maledetta o benedetta Champions League, il prossimo anno la Juventus dovrà immettere nella rosa quei giocatori alla Dani Alves, cioè quelli che questo tipo di competizione l'hanno fatta, perché credo che nell'analisi post Cardiff, al di là di tutto quello che si può dire, cioè che il livello tecnico del Madrid ha dimostrato ancora una volta di essere superiore, si è mancata anche un po' di personalità, cioè l'approccio al secondo tempo eccetera eccetera. Immagino che ne abbiate parlato anche a Iosa in questi, sì, in queste ultime 48 sì, ore qualcosa esatto. Quindi qualcosa. Quei nomi che si sono fatti, che la Juventus prontamente ha, come dire, smentito, lasciato cadere, come Di Maria, come Iniesta, secondo me potrebbero tornare utili, tornare in moda. Douglas Costa, per qualità e per esperienza, giocare partite del genere e competizioni del genere. Anche se la Juventus è solita programmare invece che provare semplicemente a mettere però, giocatori già pronti. Però se tu devi programmare per la prossima stagione devi prendere uno che queste cose le sa già fare. Se tu avessi vinto, potevi programmare il giocatori, futuro con più calma. Giocatori che conoscono la strada, per portarti là, come appunto Daniel Alves. Poi, grazie, carità, Luca. La mia è un'impressione, magari invece prendono il giovane che è in grado di vincere. Io la condivido. No, io la impara condivido. Il polacco, dai. La condivido, impara il polacco. Ciao Luca. Guarda che parla inglese, Chesney. Una vergogna. Ciao. Ci sono esperti di mercato che non sanno neanche il polacco. È una vergogna, Luca. Come si fa? I miei tempi non l'avremmo consentito, Tu l'hai studiato profondamente. Polacco straordinario. Ai tuoi tempi, Pier, c'era Franco Ordine che sa il polacco. Fabrizio Biasin, ma che è tiki-taka? Biasin e Ordine, buonasera, come state? Un grande classico dell'erotismo calcistico. Ordine Biasin. Se posso dire, ascoltato con interesse, grazie, molto gentile. Ho ascoltato con interesse, diciamo, quello che pensa Allegri, e devo dire che corrisponde perfettamente a quello che ha in mente Allegri, il quale è giustamente preoccupato perché finora dei futuri acquisti della Juventus si è parlata soltanto di qualche giovane da venire, Orsolini. L'uruguaggio è arrivato qualche mese fa. Betancourt. Esatto, e poco altro. Poi, poiché lui pensa invece che la Juventus abbia bisogno di giocatori tipo di grande personalità e di grande esperienza per vincere questa la Champions, credo che il dissenso tra virgolette ideologico tra lui e la Juve sia legato proprio a questo punto. Sì, non è che si veda questo dissenso. Risolto, hanno appena firmato un contratto fino al 2020. Sto dicendo, parlando del dissenso ideologico. Sì, sì. Vabbè, ci aspettavamo di più da questo intervento, da questo episodio. Ci aspettavamo di più. Riproviamo fra un minuto con un'altra domanda. Invece, Biasin, tu come ti giochi la tua prima chance? La domanda come te la giochi? Pazzesca in questo momento. Intanto, buongiorno a tutti, tranne a Ordine, giusto per cominciare. Grazie, molto gentile. Io la vedo un po' diversamente. Secondo me, non c'è un attrito tra società e allenatore, semplicemente una visione diversa di vedere le cose, cioè in questo momento Allegri, dopo 3 anni di grandi successi, ma di mercato gestito molto bene, ma sempre e solo dalla società, forse vorrebbe entrare un po' di più nelle decisioni, perché nessuno mi toglie dalla testa che negli ultimi 3 anni Allegri ha gestito molto bene il parco giocatori a disposizione, ma non ha mai avuto la possibilità di fare quello che voleva, per esempio il famoso trequartista. Mi rivolgo al tribunale, è una chance importante per Ordine, ma è una chance importante. Chiedo le royalty perché questa è la tesi che ho accreditato io poco fa. Tu hai messo un fiocchetto e te la vuoi rivendere non va bene. Ragazzi, se un venusiano arriva e ascolta la radio, non gli viene in mente che Allegri ha appena firmato un contratto con la Juve fino al 2020. Giovanni, scusami, ma perché un venusiano dovrebbe chiamarci? Ci ha chiamato Bocelli, ci può chiamare anche un venusiano. Scusa, Giovanni Capuano, tu eri presente a Cardiff, sì. Eri presente a fine partita nella zona? Sì. Benissimo. Cosa ha detto Allegri a voi giornalisti presenti lì? Sì. Complimenti, bravi! Avete continuato a ripetere per giorni e giorni, settimane, che eravamo alla pari, 50 e 50. Quindi che cosa voleva dire con questo? Ma poi ha aggiunto, un giorno di questi vi prendo, vi faccio un po' di lezione. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che per lui e soprattutto per lui la Juventus era ancora distante dal punto di vista, oltre che tecnico, dal punto di vista dell'abitudine a giocare certe partite rispetto al Real Madrid. Sì. Senti, ma io voglio arrivare a un altro punto, voglio chiedervi, allora, il nodo, l'oggetto del contendere a Milano in questo momento è il futuro di Donnarumma. Poi lasciamo stare il derby del mercato, Milan 3, Inter 0, ma l'Inter deve ancora partire, con Spalletti partito per la Cina. Ecco, ma allora, Donnarumma non si tratta semplicemente di un giocatore, si tratta del portabandiera in questo momento del nuovo corso, si tratta di un segnale stradale dove va il Milan. E allora, che fa Donnarumma? Pardo, cosa fa Donnarumma? Dillo a me. Secondo me rimane, secondo me rinnova. Credo che comunque questo, questi pensieri un po' lunghi non abbiano particolarmente scaldato il popolo rossonero. Questo tiki-taka con Mineraiola. Scusate, rinnoverà sicuramente... Se... anche per come la vedo io, però Donnarumma ha già perso una grande occasione, quella cioè di diventare il giocatore simbolo da qui all'eternità del Milan. Poteva farlo, invece tutto questo temporeggiare per andare a guadagnare qualche soldino in più, e stiamo parlando di tanti soldi, lo porta adesso ad avere un problema con i suoi tifosi che piano piano lo stanno abbandonando. Questa cosa è un problema che 5 minuti dopo che firma in parte rientra, però sono d'accordo con te che insomma poteva giocarsela meglio. È anche chiaro che quando hai 18 anni e hai Mino Raiola che ti consiglia, e comunque voglio dire, può stare simpatico o meno simpatico, però insomma è uno dei manager più vincenti e che funzionano di più al mondo, stai a sentire lui, quindi questo se lui forza la mano probabilmente, ecco. Quindi questo mi sento dirlo come attenuante per il ragazzo, Però è anche vero, però che adesso devi firmare, dai. C'è anche una famiglia che sta attorno a Donnarumma, e questa famiglia dovrebbe accorgersi che è passato il momento del Ciccio, quanto sei bello e quanto sei bravo, e siamo arrivati a quello degli striscioni fuori dalle sedi. Io, se fossi il papà o la mamma di Donnarumma, mi farei delle domande. Io devo dire una cosa. Franco, non è detto che voglia diventare il simbolo del Milan da qui all'eternità. È chiaro che farà i suoi conti al giocatore, adesso ha 18 anni, la soluzione migliore, figurati. Rinnova per tanti soldi, poi vediamo a 18 anni, tra due anni, va da un'altra parte a guadagnare molto di più. Dunque, io devo dire questo. Primo, non sono così sicuro come Pardo e Biasin che rinnovi. Secondo, è evidente che qui c'è un pregiudizio e una voglia incredibile da parte di Raiola di fare un dispetto al nuovo Milan cinese. Terzo, il punto vero è questo, e cioè nell'unico e ultimo colloquio che c'è stato a Monte Carlo a tre, Raiola, Donnarumma, Gigio e Massimo Mirabelli, Donnarumma a parole ha detto davanti a due testimoni, qui davanti a Raiola e davanti a Mirabelli, che vuole rimanere, ma non lo ha mai detto in maniera pubblica e solenne. Questo è il punto. Che cosa pensa, che cosa vuole fare Raiola? Per fare comunque qualcosa che somigli molto a un altro dispetto, allora per accontentare il giocatore chiede e pensa di firmare il contratto alle cifre che sono più o meno sono eccellenti, ma vuole mettere una serie di clausole che di fatto rendono non esecutivo il contratto, perché se tu stabilisci già una clausola rescissoria vuol dire che chiunque si presenti con quella cifra lo può portare via anche dopo domani. Però se la clausola rescissoria, tu mi insegni, è alta, è molto alta, come ha fatto Cairo con Belotti, può essere anche una... Intanto, con Belotti l'ha fatta solo per l'estero e non per l'Italia. Puoi farla anche solo per l'estero. Belotti, a differenza di Donnarumma, a gennaio del 2017, senza fare tanti capricci e tante storie, ha firmato un rinnovo con il Torino a 1,5 milioni più bonus, che non significa che non andrà a guadagnare molto di più da qualche altra parte, ma significa che quando tornerà a giocare all'Olimpico di Torino prenderà gli applausi, perché si sta comportando bene. Ma al di là di questo, io sono contrario a mettere sulle spalle di Donnarumma la responsabilità di gestire in maniera come farebbe un trentenne una situazione del genere. Il vero problema del quale già parlava Biasin, e mi meraviglio della sua lucidità stamattina, sono le tre e mezzo. poi quello poco lucido sarebbe Biasin, sono le 3:30. Contrario tuo, caro Pardo, non ho pranzato. Allora, volevo dire, il problema vero qual è che la famiglia fa il pesce in barile, perché un altro padre se non avesse una ferita aperta nei confronti del Milan si comporterebbe in maniera molto più affidabile, perché direbbe: guarda che qui stiamo compromettendo l'immagine del mio figlio giocatore, perché uno che non parla, che non dice niente, che si mette nelle mani di Raiola come se fosse un impedito, è un giocatore che non può riscuotere grande ammirazione. Oltre che tra stiamo i parlando di un che ragazzo essere... di 18 anni, non dimentichiamo, stiamo appunto, parlando di un ragazzo di 18 anni e la famiglia che deve uscire allo scoperto. La non famiglia, ne ha 10 però, di figli giocatori, sì, la famiglia deve... Carlo, la famiglia purtroppo ha un nervo scoperto, perché quando c'è stato l'altro fratello, sempre portiere, che adesso è in Grecia, lo hanno preso, gli hanno fatto fare la trafila delle giovanili, poi quando hanno visto che il talento era, diciamo, discutibile, relativo, a un certo punto, relativo. Esatto, a un certo punto lo vabbè, hanno caricato. Va bene, però adesso stiamo parlando di un'altra cosa, c'è Raiola di mezzo, non credo che sia la famiglia che deve decidere. Dobbiamo salutare tutti. Dobbiamo salutarci. Io vedo il Po, da qui vedo il Po, mentre mi allaccio la scarpa vedo il Po, vedo uno in calore. Io vedo Gianmarco Ferronato ed Edoardo Lavezzani. Michael Vogato e Michi Previato. Questo è il giorno, in cui ci ha chiamato Bocelli in diretta, ragazzi. Non lo dimenticherò. 7 giugno 2017. Grande maestro Bocelli. Ciao Andrea. Possiamo Amico salutare mio. Così. Bacio a tutti. Ciao, a domani. Ciao Luca. Ciao. A domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.